Paradosso Spaziale. L'arte come non l'avete mai. Un programma di Fedra C. Boscaro e Stefano W. Pasquini. Ok. Now I'm pulling the chains, always flush out my veins, out the drain. Flush, you're lucky, no more sink. You left skid marks, but the scars don't last. Flush, time to be me again. Flush, each bubble, meet my friends. Flush, sorry, love, what was that, what I heard was nah, yeah. I've been too nice, too nice, too nice. You can't afford to be sloshing. And you've been smoking way too much book. I've been too nice, too nice, too nice. And you're talking way too much. Before you get here, is I suggest you just slosh. You don't even know how to provide for your shit. Broke ass guy, so I spent five on a chick. All my mates said that I had you with. Do I intimidate you? Cause I am the shit. Yeah, I am the lick. And you shall hide down. Go make that real young and leave right now. And I can turn this argument right round. So baby, stick your tongue out and bite down. You wear the ups and downs, ins and outs of your hair. I don't really care who the girl who works here. No bought boots, reduced the size of your derriere. I don't care how you think I should behave. I can't believe that I changed. You have me whipped and chained, but no more. Shut up and listen, I'm gonna flush you out my system. Flush, now I'm pulling the chains. Always flush, out my veins, out the drain. Flush, you're lucky, no more sin. You left skid marks, but the scars don't last. Flush, time to be me again. Flush, each bubble, meet my friends. Flush, sorry love, what was that, all I heard was I've been too nice, too nice, too nice. You can't afford to be still. Just think the biz working way too much bookers. I've been too nice, too nice, too nice. And you're talking way too much. So before you get hit with, I suggest you flush. Aiuto, Fedra, aiutami, aiutami. Non so più dove sono. Remember that time, yeah. I tried to do something nice. You just whine. I bought you champagne, but now you want wine. It's a real pain, just make up your mind. I made up my mind, you're wasting my time. You ain't got no rhyme, you wait all the pies. Plus I know five guys who's waiting in lines. I bet you just slide and say your bye-byes. Ed eccoci qua, la 143esima puntata di Coxo Spaziale. Senza Fedra, come faccio io senza Fedra, che non faccio la regia da, boh, sei mesi. E comunque non ho capito niente, dunque io sostituisco Fedra, per cui io sono Fedra oggi e tu Andrea invece sei me, giusto? Cioè sono in veste W, però sono anche davanti al vero W, per cui è un WW che... È un WWW WWF, potremmo dire, come diceva il vecchio wrestling, no? Così mettiamo anche Fedra, esatto, WWF. È vero, WWF. We got tickets for the WWF. Quello mi chiedevano quando miliardi di anni fa facevo coso a Royal Albert Hall. Vendevo biglietti a Royal Albert Hall e ogni tanto vendevi mi chiedevi biglietti a Royal, sì, Albert Hall. Pensa un po' qua. Mi piace molto. Ho già fatto il primo errore. A proposito di errori, allora numero uno è non ho incontrato la Clelia Sedda, che era quella dell'Error Day, e vabbè, questa è una cosa. Il secondo errore è che mi sono dimenticato completamente la musica di sottofondo, per cui posso usare tipo per un attimo il nastrone, poi dopo potrei eventualmente fare del beatbox, però non lo so fare, quindi dovrei nel frattempo anche perché impararlo. Tu di fatto devi fare la conduzione reale di Coxo Spaziale, la co-conduzione, però indice opponibile in veste W sempre, esatto, quindi in veste, diciamo, ecco, ho sentito suonare un campanello, perché sta diventando infatti tutto come quel... porta a porta. Esatto, un po' come porta a porta. Io fra l'altro non avevo capito niente, perché visto che, come ben sapete, domani c'è la festa di abbandono di questo spazio, pensavo che dopodomani saremmo già stati in un nuovo spazio. Invece no, ho scoperto che giovedì prossimo saremo di nuovo io e te qui, perché Fedra è in Trentino. Non ho capito. Tu hai capito che cosa è andata a fare Fedra in Trentino? Con una precisione, no. No. Però so che è in Trentino per buone ragioni, so che ci ha lasciato... ti ha... come dire, riconsegnato Coxo, e quindi lei è andata a coxare da un'altra parte, però noi coxeremo qui. Noi coxiamo qui, e naturalmente, se volete messaggiarci o whatsapparci, il numero è sempre lo stesso. E lo leggo, e se è quello che è grande grande qua davanti a me. 3331, quindi 333 1809 494. Bravissimissimissimo. What's the worst thing that could happen? We'll find out that we don't mettere della musichetta, but on the flip side we could be just right. Qua dentro USB c'è scritto audio. In realtà c'è fammi... Vai, prego. I due minuti di Loli hanno una durata percepita variabile. Sono partiti i 2 minuti di Londra. vabbè, abbiamo 2 minuti. Cosa mettiamo? Finito? Spaventosissimi. Allora, siamo tornati a Coxo Spaziale. Mi scuso con Fedra, che sicuramente quando ascolterà questa registrazione dirà: ma perché le pubblicità delle 7:30 sono partite alle 7:10? È così, perché andiamo così veloci che mandiamo indietro il tempo. Esatto, perché stavamo aspettando il nostro graditissimo ospite, di cui io non ho alcune notizie. Cioè, ma è un ospite che lo vedo, è bello, sta bene, è rilassato, per cui è abbastanza segreto. È stato scelto perché è anche in grado di autopresentarsi, nel senso che non mi permetto neanche. Lo introduciamo, si introduce, introduci. Ciao, sono Miguel Gatti, presidente dell'associazione Il Garage Produzioni di Bologna. Il garage. Sarebbe il garage in spagnolo. Abbiamo questa basculante che si apre e porta nel nostro mondo, perciò non sappiamo come chiamarla. Ed è venuto fuori la testa mentre aprivamo, ho detto il garage. Io sono mezzo cileno, genitori cileni, vivo a Bologna da tanto tempo, però abbiamo voluto dare questa connotazione un po' sudamericana, un po' sudaca. E che fate nel garage? Posso chiedere subito così? Sì, vabbè, il garage è un'associazione culturale nata nel 2012 all'interno dello spazio Senza Filtro. Conosco, sono amico di Federico Croci. Certo, di il Tilt. Mitico Tilt, with di Tilt. giusto, è una delle associazioni culturali ospiti dentro lo spazio che adesso non so se lo sai, ha cambiato nome da 2 anni ormai. Si chiama OZ. OZ. Come filtro, il mago di Oz. Ah, Oz come sì, mago di Oz. La prima esperienza, quella di 2 anni con Parimetri Culturali, si è esaurita e Parimetri Culturali ha continuato insieme al presidente Walter Albertazzi nel suo percorso di bonifiche di spazi urbani. Si sono spostati, hanno vari progetti, anche progetti molto grossi. Noi siamo assolutamente grati all'associazione Parimetri Culturali che ha aperto quella possibilità di poter crescere uno spazio. Noi abbiamo risanato, come hanno fatto moltissime associazioni sportive, Eden, Tilt. Noi abbiamo risanato una parte del magazzino dietro. E siete belli grandini, Ozzi, eh? Ozzi affaccia su via Stalingrado 59, il nostro magazzino si affaccia in verità su via Calzone, quasi un isolato, e 14.000 metri quadrati, la gente dentro si sposta in bicicletta. Wow. E adesso, dopo l'esperienza di planimenti culturali, c'è l'esperienza di Eden, con il presidente Claudio Passarello, detto Lillo, che appunto sta gestendo adesso lo spazio, uno spazio difficile da gestire perché è veramente pieno di tantissime realtà. E noi abbiamo bonificato quest'area, il vecchio magazzino di 300 metri quadrati, e abbiamo costruito un limbo, sarebbe un infinito, con delle MDF. Aspetta, che questo forse spiegarlo a chi ci ascolta può essere utile, perché un limbo, la traduzione diventa un infinito. Sì, un infinito, giusto. È un teatro di posa per riprese, no? Sì, giusto. Noi abbiamo 2 spazi, uno di 90 metri quadrati, l'altro di 200. Nei 90 metri quadrati abbiamo allestito un ufficio, abbiamo dovuto ripristinare tutto perché si sono portati via anche il rame, anche le luci, i neon, tutto. Poi abbiamo dovuto rifare la controsoffittatura. Abbiamo dovuto ripristinare il pavimento, tutto l'impianto elettrico. Bello sbattimento, sì, ma sì. Adesso state facendo tante cose, no? Perché il garage è un po' anche un'anima del cinema indipendente di Bologna, no? Sì, questo è il quarto anno e quest'anno sicuramente per noi è una svolta. A partire dal lavoro che abbiamo sostenuto di Mario Piredda insieme ad Articolture, che è una casa di produzione che adesso sicuramente è la più dinamica rispetto al cinema bolognese. E il lavoro di Marco cos'era? Di Mario Piredda è un corto di 20 pagine, adesso l'11 giugno ci sarà un recupero di 2-3 scene, un lavoro fatto in Sardegna. Mario Piredda è un autore, un regista sardo, radicato a Bologna, credo uno dei più bravi registi sicuramente che lavorino sul territorio, da 35 anni. Poi sicuramente è uno dei più bassi, perciò chi non coxa mi mettiamo si sempre rivede, le pedanine sotto. Mi scrive la Susi, chi non coxa si rivede, riempitemi sto tardo pomeriggio d'arte, va là. Per cui grazie che lo state facendo. Io nel frattempo vi guardo, vi ascolto e state andando benissimo, andate pure avanti. Dai, che stavo pensando che comunque Miguel dà anche tutta la strumentazione, il supporto, e hanno le competenze per rendere possibile la realizzazione dell'arte. Sì, noi rendiamo sostenibili i progetti, cioè da noi arrivano i ragazzini di 20 anni, 23 anni con la luce negli occhi, con queste sceneggiature in mano, alcune volte scritte malissimo, altre volte con delle idee invece frizzanti, vengono e ci convincono. E sempre scherziamo, diciamo che con 2 birre ci convincono a produrre un lavoro. Io credo di no, con 3, almeno con 3. Allora verremo con 4-5. 4 birre e basta, facciamo un lungometraggio. No, a parte gli scherzi, siamo comunque persone che si affacciano nel tutto il cinema bolognese, che è giovane, di cui Bologna veramente si nutre ed è piena di autori, giovani autori. Oggi eravamo, c'è uno dei nostri ragazzi che stava sostenendo un regista veneto, Tancredi, il grande Tancre, il suo secondo lavoro che sosteniamo, e sono tutti lavori che hanno difficilmente verrebbero prodotti perché magari hanno solamente 2 location, mancano i soldi anche per il catering, sicuramente non hanno i soldi per comprare, per noleggiare i luci, per pagare un tecnico. Ma noi quello che facciamo, acquistiamo una parte dei diritti di questi cortometraggi che poi in verità non è possibile monetizzare perché un cortometraggio la mia domanda sarebbe poi andata su questo, ma poi cosa succede una volta prodotto tutto quanto? Girano questi film, riescono alcuni si autofinanziano, c'è un ritorno anche economico solo di... La maggior parte dei corti si sono autofinanziati, quelli con cui lavoriamo noi. Uno va a rompere il suo salvadanaio, a prendere i soldi, certo, sotto il cuscino, sotto il materasso, viene da noi e dice io questo. e poi cerca di prendere l'attore bravo, pagare il catering, pagare la benzina delle macchine che si spostano. Il cortometraggio in verità non ha un suo ritorno economico. E mi però viene... ci sono molti festival con molti premi, sì, giusto? A me viene in mente sempre quello che mi diceva Mario. Mario Pireda ha fatto 5 anni fa, 6 anni fa Io sono qui, che è stato candidato ai Davide Donatello nel 2010, ha vinto 60 festival. Lui mi ha detto che però... il ritorno economico sono stati 10.000, però ne sono stati spesi 40 per il corto. Vincendo è stato 60 corto, festival, è stato un corto che veramente ha vinto tanto, e perciò in verità anche la distribuzione dal punto di vista economico ha un ritorno limitato. Però cosa succede? Succede che per esempio noi l'anno dopo Mario Pireda sono qui, abbiamo, io in maniera personale con altre persone, abbiamo sostenuto per esempio Germano Maccioni, che ha fatto un mediometraggio, Cose naturali, con Roberto Erlitzka, prodotto da Articolture, con la fotografia di Marcello Dapporto, e con un sostegno di tantissime altre realtà, anche più, diciamo, più vecchi di noi, sul, e siamo riusciti a vincere il Festival di Bari. Adesso Germano Maccioni fa il suo lungometraggio ad agosto, dove il Garage sarà una delle componenti che sostengono, che lavoreranno su questo progetto. Perciò è, alla fine è investire, seminare tanto e raccogliere. Ci vuole veramente tantissimo tempo per raccogliere e bisogna avere pazienza. Però state fortuna, iniziando molta a raccogliere fortuna un po' anche delle vostre fatiche, no? Sì, ci sono dei registi che stiamo vedendo, stanno lavorando bene. E ci sono delle realtà che stanno crescendo come noi, credo. Ci sono anche dei ragazzi che da noi sono diciamo, lavorano, scaricano il furgone, però incominciano già a provare a fare una fotografia, si buttano anche a fare un passo più in là rispetto a quello che è la loro conoscenza. E in questo modo si mettono in gioco e c'è anche una crescita professionale. C'è per esempio Gastoldi Francesco, che è uno dei ragazzi che si è affacciato al Garage da poco, da meno di 2 anni. E noi lo chiamiamo Gas, è considerato un ottimo tecnico, però noi lo sosteniamo anche perché firmi qualche fotografia, perché pensiamo che le sue qualità, sì, che le sue qualità devono essere assolutamente valorizzate. E come lui, Andrea Alvisi, Enrico Galli, un altro ragazzo molto giovane che ha fondato con me il Garage Produzioni 4 anni fa. E poi un altro aspetto molto così simpatico è che comunque abbiamo questo gruppo di amici artigiani che ogni tanto lavorano con noi in scenografia e che ci hanno aiutato a tirare sul Garage. Il Garage è comunque composto anche da una parete di 100 metri quadrati di cartongesso, e sono persone che comunque si affacciano a bersi la birra, poi ogni tanto magari vengono a lavorare con noi, fanno un ciappino lì. Ho un'altra domanda rispetto ai produttori, cioè ai registi di cortometraggio. Ma tendenzialmente il cortometraggio viene sempre fatto con l'intenzione poi di passare ai lungometraggi, oppure ci sono dei registi di cortometraggio che rimangono per sempre fanatici del cortometraggio? Vito Palmieri, no, mi viene in mente Vito Palmieri, perché Vito è un carissimo amico che abbiamo sostenuto e su innumerevoli progetti, Anna Bello Sguardo, anche adesso da dicembre insieme a Corrado Iovana, un giovane montatore di Bologna, hanno prodotto un nuovo lavoro e me ne parlano bene, io ancora non ho visto neanche il premontato. E è difficile non uscire dal percorso del cortometraggio, dal docufiction, uscire dal mondo web. Il salto più in là è veramente trovare un produttore in gamba come adesso lo è sicuramente Ivan Olgiati di Articolture, che riesce a mettere su una struttura come quella di Articolture, comunque a dare seguito, Articolture ha più di 10 anni, hanno fatto 10 anni credo 2 anni fa, dare seguito a questo tipo di crescita, arrivare, riuscire a poter fare il MIBAC, poter riuscire a prendere fondi, riuscire a trovare un tax credit. Ci sono tante formule, però il problema è che dal punto di vista fiscale sicuramente il cortometraggio è puoi essere nessuno. Certo. Già se devi affacciarti a un MIBAC devi avere una società che deve avere un capitale sociale di 40.000 euro che non sono spiccioli. Chiaro, nel mondo del cinema sono spiccioli. Per cui insomma diciamo che anche quel mondo lì si è diciamo avvicinato a quello che è il mondo della musica, poi, perché adesso effettivamente a livello economico siamo lì, no? Non ce n'è più per nessuno. Eh sì, sono per finiti cui, i canditi. Esatto. Diciamo no, di buono abbiamo i social network che ci permettono appunto di scoprire, che ne so, che questa band polacca chiamata Krem, di cui io sono un grande fan, per esempio, sono appena usciti con un nuovo disco e allora dobbiamo ascoltare un pezzo che si chiama il pezzo si chiama Concubina, il disco si chiama Zoteca Vivipara. Spettacolari i Krem, non saprei come chiamarli. Vogliamo andare avanti. Eh beh, certo che vogliamo andare, assolutamente. Ci ha incuriosito tanto. Ci ha incuriosito tanto su questo percorso che sembra proprio essere la bella storia di un qualcosa che cresce, che in un momento come questo mi sembra molto interessante. Fra l'altro non cresce solo in Italia, se so bene, se mi hanno riferito bene. Niente, sì, sto facendo riferimento a questo viaggio che ho fatto in Cile. Sono mezzo sudamericano, perciò ho avuto la bella idea di aprire una casa di produzione in Cile. Non so cosa mi servirà. Ma come, no. Dai, ma sai di coproduzione subito, fra l'altro, che è la cosa più geniale secondo me. No, sicuramente ho aperto la casa di produzione in Cile grazie al fatto che ho doppia cittadinanza e i miei genitori sono scappati dal colpo militare nel 73, sono nato in Italia, però ho diritto alla cittadinanza cilena che ho riscattato ai miei 18 anni. Io sono un legame molto forte con quel paese. Il Cile è un paese, come tutto Sud America, che ha una crescita abbastanza, sì, sicuramente una crescita un po' strana. I ricchi sono sempre più ricchi, i poveri non sono tanto poveri. Non come da noi, dici. Sì. Stiamo andando verso là noi, sicuramente. E niente, questo ha determinato il fatto che ho pensato bene di aprire una casa di produzione, però la verità è anche per lavorare sul territorio emiliano romagnolo. Adesso quindi in Emilia Romagna c'è il bando, c'è il fondo per il cinema, per l'audiovisivo, e penso, spero di poter fare qualche, realizzare qualche coproduzione tra Cile e Italia, qualcosa mi sembra che stiamo indagando, vediamo. Sicuramente il fondo per noi sta muovendo tanto, il fondo quest'anno ha dato soldi anche a produzioni importanti come Coliandro, come appunto agli Asteroidi di Germano Maccioni, e per noi vuol dire tanto, speriamo di poter catalizzare altre energie anche da fuori che possa essere utile per portare qualche contenuto nuovo, ma soprattutto per portare lavoro per noi. Perché lavoro. C'è la sensazione che adesso, tanto per dire, insomma, coxo un po' anch'io, bravo, Cox. Ci sia una direzione verso spingere l'Emilia Romagna a fare molto più cinema di quanto non abbia fatto in modo attivo, perché poi cioè, nessuno toglie il ruolo, cinema, esatto, nessuno toglie il ruolo importante e meraviglioso di restauro della Cineteca, però tornare a fare produzione anche grazie alle realtà che si sta muovendo tanto, perché articulture, garage, insomma, piccole case di produzione crescono, no? Sì, la speranza appunto che il trend che si sta dando nell'ultimo anno comunque venga rafforzato, diventi un po' più solido. Adesso c'è un lungometraggio a Sasso Marconi, sono venute le produzioni filippine, c'è un territorio che regala moltissimi scorci e moltissimi location interessanti, un territorio ricettivo anche dal punto di vista economico, deve essere ancora assimilato questa cosa del tax credit, cioè del sostegno dei privati al cinema, e innescando queste cose sicuramente. E come funziona? Com'è? Raccontacelo sto tax credit. Ma io non sono un grande esperto di tax credit, però in due parole il tax credit praticamente è praticamente un sostegno che un'azienda può dare a un progetto culturale come un lungometraggio, e avere una percentuale di questo, appunto, di questo capitale viene decurtata dal pagamento delle tasse, e un'altra parte invece diventano diritti. Infatti se uno va a vedere titoli di coda, per esempio, dell'ultimo di Sorrentino, Youth. E la Barilla è uno dei sostenitori del progetto, sicuramente con Youth la Barilla credo che sia investito 100, ne ha meno 150, non lo so adesso, certo, quali sono le cifre, quali sono le percentuali. È bene che si sappiano queste cose. Per esempio nell'arte contemporanea c'è questa legge del 2%, di cui un sacco di comuni o enti non sanno o appositamente ignorano l'esistenza, per cui per ogni edificio pubblico nuovo il 2% dovrebbe essere investito in arte contemporanea, cosa che non fa praticamente nessuno. È molto interessante pensare che ci siano questi supporti che poi non vengono comunicati abbastanza, esatto, e poi noi ci tocca rilamentarci di un mancato giro quando ci sono le dinamiche per farle, esatto, ci girare. Sarebbero i potenziali, ma poi non ci sono le potenze. Perché poi in realtà penso che il tax credit sia una funzione un po' simile a quello che può essere un supporto delle fondazioni, no? Cioè faccio un impegno economico e mi permette di pagare meno tasse, ma ho un ritorno d'immagine. Poi esatto, presumo anche che tipo Barilla Youth abbia invece fatto qualcosa forse in più, magari ha proprio finanziato una parte del film, perché poi quando sei un marchio di quel tipo lì puoi permetterti di spendere, certo, in cultura, devi, secondo, certo, me, certo. No, sicuramente in questo momento c'è bisogno assolutamente che il capitale pubblico incontri quello privato per poter sviluppare i progetti, c'è un'assoluta necessità di creare delle sinergie in questo senso. Sicuramente, come diciamo prima, il mondo del cortometraggio non è un mondo così affascinante come quello di un lungometraggio di un Sorrentino, perciò delle cose, dei meccanismi devono essere ancora assimilati, devono essere anche assimilati da noi stessi che lavoriamo nel cinema, che vogliamo produrre. Perciò si spera poi che tutte queste cose si riescano davvero a innescare anche su un mercato che magari ha meno distribuzione come quello del cortometraggio, perché sicuramente trovare un privato che ti dia 1000 euro, 2000 euro per un cortometraggio, può comprare anche il 50% dei diritti, però sa benissimo che non sarà nulla. Anche se il cortometraggio, secondo me, andrebbe, tanto per fare una discussione aperta, visto che Cox, certo, è democratica, andrebbe in qualche modo reinserita in un concetto di distribuzione, perché soprattutto oggi che con la presenza del web la volontà di fruizione da parte degli utenti è quella di avere qualcosa anche di breve, magari mi vado a vedere un bel lungometraggio, non mi piace, però non mi è piaciuto il film, ho visto un corto prima, un po' come fa la Pixar, no? Certo. E magari il corto è stato quasi più interessante, mi ha appagato di più di quanto non fosse lungo. è che proprio non appartiene alla cultura italiana il cortometraggio in sala. Ho questa sensazione, poi magari sbaglio. Sì, sicuramente ci sono più paesi come la Francia, altri paesi anche in Europa, nostri vicini, che sicuramente sulla storia del cortometraggio, sull'investimento del cortometraggio, sicuramente hanno una storia più importante, ma hanno anche la distribuzione nostra. In sala. Sì, no, sì, assolutamente. Anche in Italia, in verità, credo ci siano, comunque c'è una legislazione rispetto a questo, però rimane assolutamente il canale di distribuzione più importante per il cortometraggio, il festival. In Italia credo ci sono più di 100 festival, che ha assolutamente diversi colori, diverse sfaccettature. Il festival rimane ancora la vetrina per il cortometraggio, non la sala cinematografica sicuramente, e il cortometraggio rimane ancora appunto quel passo che dovrebbe portare un regista a farsi conoscere e poter essere in qualche maniera sostenuto da un produttore che, vedendo il cortometraggio, pensa di, appunto, di questo regista, gli do questa sceneggiatura in mano, vediamo cosa succede. Perciò si rimane ancora del cortometraggio. Io credo che in Italia si producano veramente più di un cortometraggio al giorno, si produce una caterva di cortometraggio al minuto. Minuto, no, comunque saremo veramente 3-4 cortometraggi. Anche perché adesso veramente, tornando anche al discorso prima delle tecnologie, della digitalizzazione, un po' il fatto che comunque con i nuovi strumenti tecnologici adesso un minimo prodotto può essere costruito veramente in casa con gli amici, con una macchina fotografica che costa che la nonna ti ha regalato a Natale. E nel frattempo Giffo mi chiede: "Do cazzo sta Fedra?" Effettivamente dov'è Fedra? Non l'abbiamo perso. Dicevamo, prima è in Trentino a coxare cose, però a vedere gente. Esatto, ma dal Trentino non manda neanche un messaggino, un whatsappino, una cosa. Un whatsappino, no? Nessun whatsappino dal Trentino, ma nel frattempo mi fa capire comunque che è giunta l'ora. L'angolo della menzione. Dell'angolo della menzione. Te lo ricordi come si fa? Ma io posso provare adesso, non so se anch'io, me la sento. Io nel frattempo sto perdendo qualche grado, per cui comincio ad avere qualche problema anch'io di lettura, mentre all'ultimo coxo spaziale non avevo. Cominci tu, comincio io? Parto secco? Parti secco. Sabato 21 maggio, lungo la Via Emilia, un percorso tra l'archeologia visuale e le nuove rappresentazioni, workshop Fotografia Europea 2016. Film amatoriali, fotografie di archivi pubblici e privati e altri reperti visuali e residuali appartengono a una stratificazione culturale, sociale e tecnologica che prepotentemente riemerge nella contemporaneità su nuovi supporti attraverso l'uso di nuovi dispositivi. Quali modalità di fruizione di queste fonti inedite proporre oggi e come attivare un dialogo con possibilità di rappresentazioni sempre più potenti e avvolgenti? Il workshop, proposto da un gruppo di ricerca che lavora sulla rappresentazione del paesaggio urbano nel cinema privato, intende presentare esempi concreti e applicazioni pratiche, raccogliendo la testimonianza e l'esperienza di studiosi di diverse discipline, registi e professionisti, che nei loro differenti ambiti hanno focalizzato il loro interesse sulla morfologia, la storia e la rappresentazione dell'universo che sorge sulla Via Emilia e attorno a essa. Questa era molto difficile comunque. Tutti coloro che per motivi di studio, ricerca, produzione artistica, gestione e valorizzazione dei beni culturali o semplice curiosità si interessano ai temi proposti sono invitati a partecipare dove? A Palazzo dei Musei, via Spallanzani 1, Reggio Emilia, e per informazioni e iscrizioni scrivere a info@hommovies.it. Sì, effettivamente le mie menzioni sono molto peggio di quelle di Fedra, perché io faccio dei blatant copia e incolla direttamente dai messaggi che ci arrivano, per cui alle volte sono lunghissimi, alle volte sono cortissimi. Sempre sabato, ma anche domenica, invece, abbiamo The Self-Portrait Experience. È una delle tappe di avvicinamento a La Cura, il festival, 8-10 luglio 2016 a Bologna. Una 3 giorni di eventi ispirato all'esperienza, al libro, al processo, alla performance partecipativa di Salvatore Iaconesi e Oriana Persico. Complessi, connessi, indisciplinati. C'è una serie di workshop, ogni workshop è preparatorio, darà vita a opere, installazioni e performance che troveranno uno spazio e un momento di rappresentazione pubblica durante il festival, esplorando temi diversi dai big data al sé al corpo. Tutte le informazioni le troverete quanto prima su www.coxospaziale.blogspot.com. Mercoledì 25 maggio ore 18, gli scritti di Bonfiglioli presentati in Cineteca. La Galleria De Foscherari e la Cineteca di Bologna sono liete di invitare gli amici del cinema e dell'arte alla presentazione del libro che raccoglie parte rilevante degli scritti di Pietro Bonfiglioli, scritti per l'arte e per il cinema, curato da Vittorio Boarini. Verrà illustrato agli interventi agli intervenuti da Claudio Spadoni, noto storico dell'arte, direttore del MAR di Ravenna, e da Sandro Toni, critico cinematografico, scrittore e saggista. Mercoledì 25 maggio, ore 18, alla Biblioteca della Cineteca in Piazzetta Pasolini. E trovate tutte le informazioni su www.defoscherari.com. Mentre invece passiamo a giovedì prossimo, ovvero un'ora prima del Coxsop spaziale, abbiamo di nuovo Sensor, l'ultima performance alla Galleria Astuni. Un'azione firmata da Simone Forti, Firenze 1935, vive e lavora a Los Angeles, che avrà luogo nello spazio della Galleria Enrico Astuni, a cadenza settimanale fino al 26 maggio, che è appunto la settimana prossima ed è l'ultima, all'interno della doppia collettiva 6616 curata da Lorenzo Bruni. E abbiamo finito. E sono finite le menzioni. Possiamo continuare a parlare con il nostro graditissimo ospite su tutto quello che succede all'interno di questo. Hai detto quanti metri quadri sono? E 300 metri quadrati più o meno. 300, sì, cioè un bel garagone, insomma, sì. Questo garage. Sì, naturalmente il nostro un piccolo teatro. E qui a Bologna ci sono altri teatri, c'è Movilen, c'è, sono altri teatri che sono di metrature quadrate molto molto più ampie. Il nostro è un piccolo teatro, però di cui siamo molto orgogliosi sicuramente. Piccoli ma operativi e soprattutto in grado di ascoltare anche quelli che ai grandi teatri non si avvicinano, c'hanno paura. E comunque andare a 051 c'hai paura. Io la prima volta avevo paura un po'. Addirittura? No, insomma, paura no. Love però... don't turn your head. Just let me walk away. I thought I might have to say you're asking the wrong guy. She wonders how, thinks she knows now. She'll be right, but all of it's gone. By the by, nothing okay to do. There's nothing okay with me. Does anything happen to have to go to see? He wonders why the indigo guy. He'll be right. Ah, che peccato, il fade out è un po' di questo mixer, è un pochino cracklante, ma dicevo che bella che era la musica degli anni 90 quando noi eravamo più giovani. Ma questa secondo te è nostalgia o è proprio era più bella la musica degli anni, era più bella? Beh, per quel che mi riguarda è nostalgia, non lo so, comunque questo è un gran bel disco, erano i Lemonheads con The Great Big No. E dunque Miguel, dove siamo rimasti? dove siamo arrivati? Ah no, aspetta che clicco subito dove siamo, aspetta, devo trovare il jingle giusto. Proviamo sono questo. Sono Margherita Pepe e sto ascoltando Coxo Spaziale. Ecco, molto bene, che sia ben chiaro. Ricordiamolo. Ne approfitto per salutare le scine che sono una volta erano, a proposito di nostalgia, erano dopo di noi e non vedo da un sacco di tempo. Quindi ancora nostalgia? Ancora nostalgia, siamo sempre sul tema nostalgia, no? Ma ritorniamo al futuro. Richiama sempre nostalgia canaglia questa cosa. Effettivamente sì, una volta l'abbiamo anche suonata, nostalgia canaglia. Ed è subito Albano. Esatto. Parlando di nostalgia ci stiamo ricordando che andavamo a scuola assieme. Sì, però questa cosa è una coxambata, una esatto. Carambox. Perché mi hanno bocciato e lui l'hanno espulso. Molto bene, cioè, sospeso. A noi di solito ci sgridano perché siamo un po' troppo autoreferenziali e perché ci dimentichiamo i microfoni accesi. Questa sera abbiamo fatto entrambi, per cui siamo perfetto. E noi siamo pure autoreferenziali, una carambata. Benissimo. Superiori assieme. No, bei momenti comunque, anche dire, vedi, poi ne bocci uno, ne spegli un altro e poi alla fine, ecco, finiscono a Coxo Spaziale, non è che la gente quando la tratti in un certo modo finirà per fare delle cose. Comunque la Susi ti fa i complimenti perché per come leggevi le menzioni, dicendo che ti dovresti proporre per Super Quark. È vero, ma perché io ho sempre amato, fra l'altro, la voce di Capone. Cioè, c'è stato un momento, proprio un flash nella mia vita, in cui io cambiavo canale e sentivo le tartarughine del Madagascar. Ah, che bello. Eccole lì affacciarsi davanti al mare. Invece, per controbilanciare, abbiamo Giffo che dice: ma la fanno ancora lunga sti dufroci? Ecco, le tartarughine del Madagascar. Questa è l'unica cosa che riuscivo a dire. Perfetto, molto bene. E siamo ancora qui. Beh, alla 194esima puntata di Coxo Spaziale con Miguel Gatti del Garage, che ci racconta. Avevi un aneddoto, hai detto. Mi dicevi prima fuori cuffia. Ma no, raccontare un po' dei progetti che abbiamo in ballo. Adesso in questo momento stiamo collaborando molto con un gruppo di ragazzi dell'Accademia di Belle Arti. Sì, Accademia di Belle Arti. Li conosco. Sì, no. C'è un corso molto interessante di fotografia e comunicazione, adesso non mi ricordo veramente condotto da Fabrizio Palombara, con il nostro caro amico. E loro stanno sfornando sceneggiature come se non ci fosse un domani, vengono tutti da noi a cercare di farsi produrre, di essere o comunque in qualche maniera di collaborare. Ma se poi vai in giro per le radio e dici bastano due birre, tre birre, quattro birre per farsi infatti, produrre, cioè, sempre con io presumo che domani, sabato pomeriggio, visto che la gente di solito è abbastanza libera, facciamo qualcosa di fare utile, un film anche per l'amico a casa che sa contare e ha riconosciuto che siamo due. Definiamo almeno la qualità della birra. Cioè, la birra del muratore, va bene la birra del muratore. La bassi proprio del muratore. L'aperitivo del muratore. Sì, poco tempo fa sono venuti anche i ragazzi, i Pancreas, loro si sono presentati con quattro casse di birra, perciò ci hanno proprio conquistati. due di pomeriggio eravamo già tutti sbronzi, perciò è stato un bel set. Abbiamo fatto con loro un ultimo videoclip con cui hanno collaborato anche con lo Stato Sociale, che erano nostri vicini. Che appunto Oz racchiude moltissime realtà, tra cui l'associazione Labu, che è un'associazione che ha costruito, ha ripristinato anche loro uno spazio, hanno fatto una sala prove, appunto Stato Sociale fino all'anno scorso erano i nostri vicini di casa. E come il videoclip dei Pancras, appunto stiamo continuando con i ragazzi dell'Accademia a costruire nuovi progetti. Sicuramente per noi il progetto principale adesso è quello che verremo a girare questo luglio. La data sembra essere verso metà luglio, fine luglio, insieme a Germano Maccioni e ragazzi di Articolture. Noi stiamo sostenendo il progetto attraverso il fatto che parte della troupe è nata ed è cresciuta all'interno del garage, perciò il capo elettricista, il capo veramente, il referente di tutto il reparto tecnico sarà Davide Sorlini, che è un po'... Beh, noi ci sentiamo figli, è il cinema, sì, il cinema indipendente a Bologna. E noi parte del materiale l'abbiamo anche acquistato da lui, l'abbiamo ereditato da lui, un materiale vecchissimo. Ne abbiamo un carrello che la leggenda narra è quello di Gangs of New York. Un carrello vecchissimo che a Milano si mettono a ridere quando racconto che ho questo carrello, perché è un carrello di ghisa che viene mal di schiena solamente a guardarlo. Però è un teatro di posa, fa la sua sporca figura, perché se per muoverlo fai 2 metri, fai la tua carrellata, è molto solido, però è un carrello che pesa, credo con tutti i suoi accessori, si aggira sui 150 kg, con macchine fotografiche che adesso stanno in palmo di una mano. Il bello di avere degli studenti dell'Accademia di Belle Arti, soprattutto quelli di scultura, che possono appunto spostare questi carrelli con una certa facilità. No? Sì, anche noi ormai siamo tutti un po' fisicati da scaricatori di porti, perciò di porto, perciò siamo tutti pronti sempre lì. Il lavoro è abbastanza, non dico duro, però è sicuramente un lavoro pesante, perché tutti i nostri accessori è ferraia, non la chiamo così, ferraia, sono tutti elementi che pesano, le luci, gli stativi. Infatti molte volte da noi si affacciano anche ragazzini e ragazze che vengono, vogliono provare a lavorare con noi, conoscerci, però quando vedono quanto pesano i carrelli dicono stancano, quanto pesa la ghisa, cominciano a nonostante tutto. Poi voi, nonostante tutta la fatica che comunque si fa a maneggiare questo tipo di attrezzature, tutte le cose che fate, gli orari che fate, perché loro sono in giro a qualsiasi ora, sono incredibili, continuate a darvi continuamente, tant'è che organizzano anche, hanno organizzato da breve poco tempo fa, una festa, una festona del garage. Sì, sono stato noi ogni tanto ci diamo a questi eventi mondani, così per incontrare gli amici e per ubriacarci insieme a loro, così escono bellissime idee, vengono prodotte. Vi devo interrompere per una stupidaggine. Raio, oraio, segnale orario. Eh no, siccome Raio, che è un nostro grande caro ascoltatore, mi ha scritto, allora gli ho fatto il jingle fatto da Riccardo Lolli, appunto, che mi scrive: ciao Pasquini, bello risentirti, sono sempre in ascolto, da bravo ascoltatore e sostenitore. Siete spaventosi, giustamente, sono d'accordissimo. Spaventosi era un complimento? Spaventosi è siamo spaventosi, cioè sì, significa così, siamo spaventosi. Spaventosi, spaziali. Siamo abbastanza spaziali, sono le 19.54, arrivano altri componenti del garage. Enrico Galli, bello del garage. Ah, no, sono il grassottello. Con calma. No, in radio funziona comunque, se volete fare anche dei mimi. No, infatti il bello ci sta. Allora, sono arrivato adesso perché volevo lamentarmi che abbiamo saputo questa cosa veramente tardi, oppure non so se è Miguel. No, io naturalmente non sono. No, è colpa di Fendra che è andata in Trentino. Degli amici avremmo chiamato. Chi è che avremmo delle chiamato? Birre, avremmo parlato delle birre. No, sì, perché prima parlava della festa, quindi di fare una grigliata qua sarebbe bellissimo. Radio Città Fujiko. Ah, bello, una grigliata dentro lo studio di Radio Città Fujiko. Sì, perché la nostra festa siamo riusciti a grigliare per 7 no, ore. No, comunque a proposito di festa, domani sera qui c'è la festa, per cui venite. Portiamo. Io purtroppo devo andare alla festa di fine scuola di mio figlio, ma insomma... Perché l'abbandono della sede, quanto è durata questa sede? Chiedo da co-conduttore. È una buona domanda, il conduttore lo dovrebbe sapere, ma risponde a caso. Credo più o meno una decina d'anni, credo, a occhio e croce. Poi sicuramente qualcun altro sarà in grado di risponderti meglio, ma più o meno a occhio e croce una decina d'anni. E c'è nuova destinazione ora? La nuova destinazione, che sarà è misteriosa, però non succede fino a luglio, per cui giovedì prossimo siamo di nuovo qua. Non ci sbagliamo, perché io per esempio non avevo capito praticamente niente. E dunque che cosa ci racconta il tuo ospite dell'ospite? Beh, con Enrico del noi abbiamo fondato il garage, ci siamo conosciuti su un set di Vito Palmieri, che qui prima abbiamo citato. Ah, ecco. Era lo stagista di Marcello da Porto, e un bel po' più giovane di me, fortunato lui, e niente, insieme abbiamo cominciato a pulire il garage, a pulire questo magazzino. È diventato, da sei segretario, adesso non mi ricordo la sua carica istituzionale, sono un po' date a caso nella nostra associazione, però non so, Enrico ci vuoi raccontare come cosa è su No, in realtà non vorrei parlare di cose serie. Ah, ok, beh, allora di qualche cazzata. Anche perché abbiamo praticamente 2 minuti rimasti, per cui hai 2 minuti di fama, come direbbe Andy Warhol. Dai, Enrico, parlaci dei tuoi progetti. Enrico sogna essere regista, dopo direttore della fotografia, poi fa l'assistente produzione e poi si lamenta, viene da me e si lamenta che dice che a Milano non lavora, che qua a Broglio non lavora, perciò si rifugia nel garage. Il garage alla fine, dai, qualche sogno l'ha realizzato. Sì, è vero, praticamente per me è la mia casa di riposo il garage. Io a 25 anni è la sua casa di riposo. Non ti fanno spostare il carrello, dunque non sei tu l'addetto al carrello? No, però no. lui è sempre i guanti, sì. E fa finta. E poi mi piacerebbe fare anche la raccolta differenziata. Molto bene, con questa felice battuta. In generale, noi concludiamo questa 100, non mi ricordo già più quanta. 42esima. 142esima, fammi un po' vedere. 143. Forse. 143, forse, fammi vedere. 143esima puntata di Coxo Spaziale con un altro brano di Cream, questa meravigliosa band anni 80, che in realtà sono giovanissimi. Una band revival anni 80 polacca di Varsavia, che salutiamo caldamente, così come salutiamo il nostro Miguel, il nostro Enrico e tutti i nostri membri del garage, oltre a naturalmente ringraziandolo il nostro Andrea di pollici opponibili, indici W, in onore a te W. Sempre opponibili, spaventosissimi siamo. Ciao, ciao, grazie ragazzi, vale, un abbraccio al garage, bello. Na moim pececie chcecie mieć na ścianie, na t-shircie, na dywanie. Nie chcecie na czacie, chcecie mieć na chacie. Città Fujiko, compi 40 anni ma sei sempre giovane. Un saluto da Diego Tools from Nasco Disco.